Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Mattino. Scusa, è la gente che lavora, stiamo tutti a casa. Scusa, è la gente che lavora di stazioni invernali, di sci, di montagna. Ah, non ce ne fotte niente. Dai, dai, non uccidiamoci il futuro, eh. Buongiorno Simone, buongiorno. Ma si può sapere di questi 150.000 tamponi quante sono le persone nuove? I soggetti diversi, grazie, ciao. Dottor Spezia, mi scusi, ancora Sandrone, veramente? Visto che il problema sono le terapie intensive, perché non guardiamo di nuovo al riaumento delle terapie intensive stesse? Beh, dai, speriamo che venga la neve. L'idea di fare 20 giorni di vacanza sulla casetta in montagna non è male, a spese del lockdown, naturalmente. Eh sì, amico mio, ammesso che ti ci facciano andare in una casetta in montagna. E sul fronte degli operatori economici, genericamente intesi, io capisco perfettamente l'ascoltatore. Il ragionamento che viene fatto in queste ore, che ha fatto il professor Crisanti, si basa su uno scenario che in questo momento non siamo in grado di dire se si verificherà oppure no, però è uno scenario appunto preoccupante, che si basa su una progressiva occupazione delle terapie intensive sempre più rapida e dei ricoveri sempre più rapidi. A quel punto, devo dirvi la verità, lockdown o non lockdown fa molto più la paura che il lockdown in sé, perché se vi aspettate che in una situazione di contagi preoccupanti, in una situazione di terapie intensive piene, di ospedali pieni, la gente venga in settimana bianca e si affolli in fila per prendere lo ski lift, ragazzi, non ci siamo proprio. Cioè, il tema è un altro, che non vuol dire giustificare l'idea di un lockdown, vuol dire semplicemente che bisogna anche tenere presente la paura e l'impatto della paura, che a volte può più dei provvedimenti normativi. Vedremo come andranno le cose, vedremo come andranno le cose. Di certo vi posso dire, così iniziamo con questa seconda parte di 24 Mattino, che è quella dedicata alla rassegna stampa. E alle 7:21 minuti e 20 secondi di giovedì 15 ottobre iniziamo con i giornali, perché molti si dedicano proprio a questo. Il Corriere della Sera parla di contagi record e di timori per Milano. Il Fatto Quotidiano, come dicevo già prima, un titolo forse un po' forte, è Milano brucia e rischia il lockdown. La Repubblica, record di contagi, Natale a rischio. Il Messaggero, picco di contagi mai così alto, possibili chiusure locali. Per il Giornale, ci giochiamo il Natale. La Verità, ci vogliono rubare il Natale. Oh. La Nazione, il Quotidiano Nazionale, coprifuoco in Francia e Germania. Il Manifesto, bonne nuit. Su Parigi, sul coprifuoco a Parigi. Avvenire, più tamponi, più positivi. Il Sole 24 Ore, pensioni, scivoli agevolati in arrivo sull'incontro ieri tra Catalfo e i sindacati. La Stampa, Covid, via il blocco dei licenziamenti. E quindi anche la Stampa sceglie un titolo sui temi economici. E infine la Gazzetta dello Sport, la stangata, partita vinta la Juve, il Napoli fa ricorso, 3-0 e un punto di penalizzazione. La vicenda ormai la conoscete tutti, ne abbiamo parlato all'infinito, basta con questa storia di Napoli. Però se ne discuterà. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete, come sempre anche l'email 24mattino@radio24.it. Siamo in diretta sulla pagina Facebook, poi non ve lo ricordo abbastanza, però siamo là, se siete proprio così curiosi di vedere anche quello che succede nello studio, che non è che succeda questo granché, sono qua io con i giornali, eccoli, eccoli. Però, magari vi piace. Iniziamo come sempre da qualcosa di diverso, e questo qualcosa di diverso ci riporta a un pezzo col quale abbiamo aperto la rassegna stampa ieri, ed era il pezzo della verità con il quale Maurizio Tortorella ci raccontava di questi concorsi in magistratura, per così dire, un po' sospetti, i tre temi che venivano esaminati in tre minuti, tre temi di una certa complessità giuridica che venivano esaminati in tre minuti, chiari segni di riconoscimento sugli esami, e questo per quanto riguarda i concorsi degli anni passati, alcuni concorsi degli anni passati, e per l'ultimo concorso per l'ingresso in magistratura addirittura sulla base di un ricorso di due persone che avevano perso, sono trovati strafalcioni in italiano, strafalcioni giuridici, addirittura parti che venivano riassunte con uno schemino invece che con un testo come in realtà dovrebbe essere ed è previsto dalla prova d'esame, tutto questo tra i vincitori del concorso in magistratura. Ebbene, ieri il ministro Bonafede era chiamato in aula su richiesta di Forza Italia per riferire su questi concorsi e sull'ipotesi che appunto fossero truccati. Ci riferisce sempre La Verità, che riprende il tema, pagina 7, che sostanzialmente Bonafede se n'è lavato le mani. Non devo controllare io i concorsi, è questo il titolo. All'ultimo concorso per diventare magistrati, due candidati denunciano gravi irregolarità, possibili truffe e imbrogli. I loro sospetti sono sorretti da dossier e prove concrete. Da ieri l'Italia sa, scrive Tortorella, che il povero ministro della giustizia non può farci assolutamente nulla. Perché è vero che un regio decreto del 1925, poi questo paese, ci sono questi pezzi qua del paese, sono incredibili. Il regio decreto del 1925 e il ministro della giustizia si deve ancora basare sul regio decreto del 1925, 100 anni fa, 95 per essere esatti, lo obbliga alla fastidiosa funzione di alta vigilanza su questi esami. Ma in realtà più che alta la vigilanza è dall'alto, e da molto alto, quasi dalle nuvole, da dove non si può vedere niente, nemmeno uno scandalo. Così ha detto ieri Bonafede. La funzione di alta vigilanza assegnata al ministro della giustizia sulla regolarità degli esami si traduce nella costante verifica della regolarità delle operazioni svolte dalla commissione esaminatrice rispetto alle modalità procedurali indicate dalla legge, ma non può in alcun modo includere il sindacato sul merito delle singole deliberazioni relative alle valutazioni dei sindacati. Stringi che vuol dire? Posso controllare le procedure, ma non posso verificare se questi concorsi sono stati truccati, e il ministro della giustizia non può fare niente. Insomma, al concorso per diventare magistrati il ministero fornisce l'aula e i magistrati esaminatori e forse anche le penne e i fogli protocollo. Da quel momento però si volta dall'altra parte e aspetta i nomi dei candidati giudicati idonei. Qua Forza Italia contesta, dice in realtà è proprio Bonafede che se ne deve occupare, però così è. Vedremo se la vicenda avrà ulteriori evoluzioni. Sicuramente può aprire un dibattito invece quello che troviamo su Avvenire a pagina 15. Devo dire la verità, l'ho trovato solamente su Avvenire questa storia qua. La racconta Francesco Ognibene, quindi ovviamente su questo c'è la posizione del quotidiano, che è il quotidiano dei Vescovi, come ben sapete, però ve la do così com'è. Olanda, eutanasia estesa ai bambini sotto i 12 anni. Siamo a pagina 15. Eutanasia legale in Olanda anche per i bambini tra 1 e 12 anni. Non è una battuta macabra, scrive Francesco Ognibene, ma è la realtà. Il ministro della salute olandese Hugo de Jong, membro di spicco del partito di ispirazione cristiana CDA, nel governo guidato dal liberale Mark Rutte, ha annunciato l'accordo nella maggioranza su un regolamento che estende anche ai più piccoli la legge sull'eutanasia. De Jong ha motivato l'iniziativa con uno studio sulla sofferenza dei bambini, commissionato dal suo ministero, secondo il quale c'è bisogno di un'interruzione di vita intenzionale, decisa d'intesa tra medici e genitori, per aiutare un piccolo gruppo di bambini malati terminali che soffrono senza speranza e in modo insopportabile. La stima del ministro, basata sulla ricerca di un numero di casi tra i 5 e i 10 all'anno, stando a quello che scrive, qua entriamo nel commento del giornalista di Francesco Ognibene, il tristemente noto metodo dei casi eccezionali e circoscritti con i quali si giustifica una pratica che ripugna la coscienza e l'umanità come l'uccisione di un bimbo. Per identificare i bambini che possono accedere al diritto di morire, per decisione dei medici e con l'approvazione di mamma e papà vanno soddisfatte alcune condizioni. Nessuna prospettiva di guarigione o di cura efficace, sofferenza intollerabile, malattia terminale. Tutti i concetti, scrive Ognibene, generici e soggetti a interpretazione, con una parte dei medici che hanno spinto per un intervento normativo allo scopo di ottenere tutela giuridica rispetto ad azioni legali per aver accelerato la morte di piccoli pazienti, sospendendo le terapie e la nutrizione assistita. Ci fermiamo un attimo, ci ritroviamo tra poco. Molte cose, ovviamente, su un po' di cronache su Covid, qualche dettaglio dai giornali e poi la famosa vicenda vaticana che si arricchisce di altri dettagli. Il Vaticano che sapeva del bluff almeno dal 2016 e questo personaggio che prende sempre più corpo, questa Cecilia Marogna, arrestata nelle scorse ore a Milano. Una pausa. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Domanda, ma perché l'ospedale in fiera per il Covid non lo attivano già subito e mettono già tutti i pazienti Covid lì dentro senza portarli nei vari ospedali e così intasare gli ospedali stessi? Ciao Simone, ma anziché dare il numero dei positivi, perché non li rapportiamo con i tamponi fatti, diamo la percentuale, così evitiamo questi sali e scendi di contagi inizio settimana e fine settimana? Guarda, io il numero dei positivi proprio non lo do generalmente, ripeto, do il numero di terapie intensive e ricoveri che sono l'elemento centrale. A proposito di questo, si sta ragionando anche se riaprire l'ospedale in fiera, si sta ragionando su questo. C'è un po' nelle cronache dei giornali di oggi. A proposito di Covid, se volete intervenire poi c'è sempre il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, per le vostre voci. A proposito di Covid, fatemi iniziare questa parte della rassegna stampa, quella dedicata a Covid dall'eccellente Mattia Feltri nel suo Buongiorno sulla Stampa, che oggi mette ancora una volta il dito in quella che è la piaga dei difetti degli italiani, il difetto di coerenza degli italiani. Nella fattispecie il difetto di coerenza è questa onda libertaria improvvisamente, per cui tutti quanti hanno iniziato a dire che l'idea della delazione dei vicini di casa, cioè il dire guarda qua sopra si sta svolgendo una festa, siamo pazzi, la delazione, ma come mai, com'è possibile? A me quella di Roberto Speranza, scrive Feltri, denunciare le feste troppo affollate dei vicini pareva un'idea come tante. Questa improvvisa e tambureggiante rivolta libertaria, anche a norma ritirata, proprio non la capisco. La nostra è una repubblica fondata sui vicini di casa e alla loro collaborazione si appellava il grillino Stefano Buffagni per smascherare i percettori di reddito di cittadinanza con villa al mare e Kawasaki in garage. Sarebbero stati loro, i vicini di casa, secondo una proposta della Lega, a tenere d'occhio i dirimpettai loschi e a segnalarli alla polizia in nome della sicurezza. Non è mica solo un'ideuzza di questi balenghi di oggi. Ricordo il grande e raffinato Rino Formica quando per combattere l'evasione fiscale gridò «denuncia il tuo vicino». E oggi nessuno lo sa. Denuncia il tuo vicino è un'opportunità codificata e senza nemmeno l'obbligo di dichiararsi con nome e cognome. La Guardia di Finanza non procederà, ma ne terrà conto, diciamo così. Stupendo, no? Delazione non è una brutta parola, disse un giorno Raffaele Cantone quando era il totem dell'anticorruzione e commentava con trasporto il whistleblowing, la legge per proteggere chi addita il collega sospettato di intascarsi mazzette. Potrei andare avanti per pagine. Parlerei, per esempio, di quando si voleva imporre ai medici, lo ricorderete, ai medici di pronto soccorso di consegnare i clandestini alla polizia. È il rimedio a tutto. È il tentativo indefesso di elevare la delazione a sistema, cioè la soluzione vincente del fascismo, l'unico modello a cui continuiamo ad ispirarci. Così Mattia Feltri sulla Stampa. A proposito però di cronache da Covid, direi che su Milano quella più completa è quella che ci fa Gianni Santucci sul Corriere della Sera a pagina 3. Il doppio dei malati scoperti rispetto al giorno prima, i nuovi casi positivi ieri in provincia di Milano sono stati 1032, 504 contagiati in città, da un giorno all'altro è raddoppiato anche il numero di tamponi. Dunque, bisogna guardare le cose sotto un'altra ottica. L'epicentro dell'epidemia in Lombardia si è definitivamente spostato da Bergamo e Brescia alla metropoli. Tra il 50 e il 60% dei nuovi malati lombardi sono milanesi. Secondo, sulla settimana, intervallo di tempo più adeguato per valutare l'espansione dell'epidemia, l'aumento appare massiccio. Se al 2 ottobre i casi scoperti in 7 giorni erano 409, sono quasi raddoppiati nella settimana successiva e poi schizzati a 1500 quasi tra il 10 ottobre e ieri. Dunque abbiamo le dichiarazioni di poi chi lavora negli ospedali. Il direttore della terapia intensiva del Sacco, che dice: a preoccuparci è l'andamento dei ricoveri. Assistiamo ad un aumento esponenziale delle richieste. 3 giorni fa avevamo 4 ricoveri in più, poi ne abbiamo avuti 8 e ieri 11. Se immaginiamo di proiettare questo trend nelle prossime settimane, potremmo trovarci con centinaia di pazienti ricoverati. Se si dovessero riempire tutti i posti, e qua veniamo alla risposta dell'ascoltatore, il progetto della regione di riaprire l'ospedale della Fiera di Milano, a parlare Antonio Pesenti, coordinatore dell'unità di crisi per le terapie intensive in Lombardia. Abbiamo pochissimo tempo per intervenire e invertire la tendenza, aggiunge Massimo Galli, responsabile di malattie infettive del Sacco. Ci rimangono 15 giorni per mettere in campo misure utili appunto per intervenire, per invertire la tendenza. Questo il quadro che ci arriva da Milano. La situazione difficile ovviamente anche in Campania. Adesso vedo un attimo se riesco a recuperarvi il Mattino, sul quale appunto ci sono delle cronache un po' più precise su quello che sta succedendo in Campania. Intanto però vi voglio portare sul tema di Immuni, perché Immuni c'è. L'hanno scaricata 8 milioni di persone. Questo non vuol dire che 8 milioni di persone la utilizzino, però dall'altra parte bisogna vedere se le regioni sono pronte ad utilizzarlo, e a quanto pare non sono pronte ad utilizzarla. Ce lo racconta Il Giornale a pagina 5 con Marco Lombardo, il quale dice: diciamo la verità, scaricare Immuni è un dovere. Avere un'app che permette di controllare il contagio è un'arma eccezionale, e anche le polemiche sulla privacy sono ormai passate. Immuni adesso è sicura ed è pronta, peccato che non lo sia il paese. E porta un esempio, il racconto di una persona. Regione Veneto, un signore di Padova riceve dal proprio telefono l'alert che lo avvisa di essere stato in contatto con un positivo di Covid. Il dato è certo, visto che Immuni lancia il messaggio solo se la vicinanza si protrae per oltre un quarto d'ora. Il nostro amico, visto il suo comportamento, possiamo definirlo così, ha immediatamente attivato la procedura prevista in questi casi. Ha chiesto di fare il tampone, ha ricevuto a sua volta la certezza della positività, ha avvisato amici e parenti e si è chiuso in casa per la quarantena. Mancava un pezzo, ovvero chiamare l'unità sanitaria locale di competenza per condividere i dati della app, la vera arma di Immuni. Il suo codice, insomma, sarebbe servito per continuare la catena di prevenzione, solo che la risposta dell'operatore dell'azienda ospedaliera ha spezzato l'incanto. Al momento in Veneto non c'è una procedura per utilizzare il codice dell'app, il codice di Immuni. Capite che se è così è perfettamente inutile avercela e avercela scaricata. Non voglio dire che lo sia, dico semplicemente che se non funzionano le cose, se non funziona la catena, se non funzionano le ASL, avere Immuni sul telefono è praticamente inutile. Il Mattino, vi dicevo, la situazione in Campania, il titolo, l'apertura del Mattino è esattamente sull'ingorgo dei ricoveri, con una corsa abbastanza forte. I dati qua sono sui i dati che troviamo qua sono su, soprattutto sui positivi, sono in settembre erano 5.700, già solo ad ottobre sono 7.900 e il numero di ricoveri, come dicevamo, che aumenta, sono 61 in terapia intensiva, 735 complessivamente ricoverati, e qua mette i numeri con il Mattino parlando di un grande ingorgo in corsia con Adolfo Pappalardo e i posti letto ridotti al lumicino. Situazione non facile, nemmeno là, con una situazione, come dicevamo, appunto di strutture sanitarie che non è la stessa, evidentemente, di altre regioni. Cosa ancora? Vabbè, alle 8.35 parleremo prima con la ministra Dadone e poi con Sabino Cassese, ve lo annuncio perché so che è un tema di grande interesse un po' per tutti, parleremo dello smart working nella pubblica amministrazione e gli effetti che ha avuto davvero, il rischio che si incrementi il fenomeno delle cosiddette pratiche lumaca. E il grande tema che è stato dibattuto, se i lavoratori del pubblico impiego abbiano lavorato oppure no durante il periodo di home working o smart working. Ebbene, apprendiamo dal Messaggero a pagina 11 che arrivano altri fondi per gli statali, per il rinnovo del contratto. Un altro vertice di maggioranza, ci racconta Andrea Bassi a pagina 11, un nuovo incontro tra il governo e i capi delegazione dei partiti che lo sostengono per provare a trovare la quadra sulla manovra da 40 miliardi di euro che dovrebbe essere approvata entro la fine della settimana. Un menù ricco nel provvedimento, dovrebbe trovare posto anche un nuovo stanziamento di circa 500 milioni di euro per finanziare il rinnovo del contratto di 3,2 milioni di statali suddivisi in quattro comparti: funzioni centrali, sanità, enti locali ed istruzione. Nel bilancio sono già stati appostati 3,175 miliardi, risorse ritenute insufficienti dai sindacati che ne chiedono altri due, e dunque si tratta anche su questo. La vicenda del Vaticano si arricchisce, voi sapete è una mia grande passione, si arricchisce di mille nuovi elementi. Apprendiamo dalla Stampa a pagina 13 con Gianluca Paolucci che il finanziere al centro della scena, Raffaele Mincione, utilizzava l'obolo per i suoi fini. E ci sono dei documenti riservati che ci raccontano gli allarmi sulle opacità del fondo maltese, nel quale la Segreteria di Stato investì 250 milioni di euro. A quanto pare il Vaticano sapeva del bluff almeno dal 2016. E molteplici ritratti sulle pagine dei quotidiani della donna che in questo momento è al centro della scena, anche perché è stata arrestata a Milano, che è Cecilia Marogna, la manager per la quale il Vaticano appunto ha chiesto e ottenuto l'arresto eseguito martedì a Milano dall'Interpol. Si trova a San Vittore adesso in attesa di essere estradata. Cristina Cucciniello e Giuliano Foschini ne tracciano un ritratto partendo dai suoi profili social. Lilian CM, Cecil M13, Cecil M, Cecilia Marogna, la nuova dama nera del Vaticano è una, ma in realtà è molte altre. Una ragazza sarda, un po' massone, un po' esperta di geopolitica, un po' amante dei servizi segreti, ma in realtà anche una piccola cialtrona del genere romano. Una che più che sulla formazione sembra aver investito sull'agenda telefonica, sui contatti, sui sorrisi, le cene nei circoli della città. È dunque difficile capire chi sia veramente, ma è possibile seguire tutte le tracce che ha lasciato sul web, dove attraverso una serie di alias che Repubblica ha seguito ha contribuito in questi anni a tessere le relazioni che le hanno spalancato le porte del Vaticano, portandola fin dentro la stanza di Monsignor Giovanni Becciu, là dove è partita la sua fortuna. Traffico. Mattino. Ed eccoci con l'appuntamento con il nostro direttore, direttore anche del Sole 24 Ore, dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Ciao Fabio, buongiorno, eccoci. Buongiorno a tutti, eccomi qua. Partirei con te dall'apertura del Sole 24 Ore che oggi dedichiamo al tema delle pensioni, perché ieri, lo ricordiamo, c'è stato un incontro tra il governo e i sindacati, tra la ministra Catalfo e i sindacati, esattamente su questo, e l'idea è di facilitare le uscite per le aziende che devono effettuare degli esuberi. Certo, sulla carta è senz'altro un'ottima idea, il sistema ha bisogno di un ricambio, ha bisogno che si faciliti l'entrata sul mercato del lavoro dei giovani, e per far questo è chiaro che l'uscita incentivata di persone più anziane ha il vantaggio di aprire loro la porta delle aziende. Io conservo una preoccupazione forte, un po' qui, un po' là, i provvedimenti che sono generosi nei confronti degli italiani si stanno moltiplicando. Alla fine, tirando una riga, ci sarà un problema. Che questi soldi poi bisogna trovarli da qualche parte, e alla fine ce li darà un po' l'Europa, un po' ce li prendiamo a prezzo dai mercati, ma poi vanno restituiti, e questo sarà un problema grande. Ho l'impressione che c'è un rischio che oggi si faccia un po' come le cicale, e poi dopo l'estate finisce e arriva un rigido inverno in cui questi soldi dovranno essere restituiti. Non ho chiaro, ma lo dico senza polemiche, non ho chiaro poi questo debito chi lo pagherà. Abbiamo un sospetto, le prossime generazioni. Un sospetto. Me non ci arriviamo neanche alle prossime generazioni, chi lo pagherà quelle di oggi. Nel senso che alla fine pagherà Pantalone, ma il problema è che poi non vedo neanche un paese che ha una spinta forte allo sviluppo, anche perché l'emergenza sanitaria pesa, è l'emergenza sanitaria che si fa sentire, ancora, non è finita. Certamente. Il fatto che abbia aggredito Milano è molto preoccupante da un punto di vista di tenuta della Lombardia, e la Lombardia è la locomotiva d'Italia, da un punto di vista dell'economia produttiva, da un punto di vista dello sviluppo. Insomma, qui continuiamo a investire un pochino un po' là, ripeto, tirando una riga sono miliardi, questi miliardi da qualche parte vanno presi e vanno restituiti. Sì. Tra l'altro proprio su questi temi oggi ci sarà un nuovo passaggio della trattativa sul Recovery Fund. Ieri il Presidente del Consiglio è stato in aula, nelle aule parlamentari, ad annunciare i dettagli di come si apre, no, questo vertice europeo, che è un vertice europeo forse, Fabio, che potrebbe essere, lo diciamo quasi con un certo dispiacere, potrebbe essere aiutato da questa fase pandemica, perché le tensioni che c'erano alla vigilia potrebbero essere sciolte dal fatto che i contagi stanno ripartendo un po' in tutta Europa, e quindi c'è probabilmente un po' più di fretta di chiudere. Che dici? Anche qui però c'è un debito enorme che aumenta sempre di più, riguarda l'Europa, riguarda gli Stati Uniti, riguarda la Cina. Il mondo è seduto su una montagna di debiti e non vedo nulla di buono in tutto ciò. Certo, Angela Merkel ha un compito difficile, è quello di dare una spinta, una spallata definitiva a tutti i paesi che devono approvare le scelte fatte a proposito dei fondi europei contro la pandemia. Ci sono paesi che la tirano per le lunghe, dall'Olanda, la Polonia, l'Ungheria, buttano là la palla. E siccome questi provvedimenti devono essere approvati dai parlamenti di tutti i paesi che fanno parte dell'Europa, buttare la palla lunga è facile. Alla Merkel tocca il compito di riportarli a ragione. Non è un compito facile, forse bisognerà passare per dare qualche strigliata più forte delle altre ad alcuni di questi paesi. Il candidato numero uno è l'Ungheria, che si presta molto per prendersi una bella strigliata, perché ha dimensioni tali per cui un'Europa senza l'Ungheria non cambierebbe granché, mentre invece non si può dirsi altrettanto rispetto ad esempio, che ne so, alla Polonia. E quindi colpirne uno per educarne 100 potrebbe anche essere un principio che alla Merkel potrà venire la tentazione di applicare. Oh, dopo aver un po' intristito, ma anche correttamente per così dire, i nostri ascoltatori, fammi andare su una cosa più felice. La vicenda di Capri, alla quale dedichiamo la fotonotizia oggi sul Sole 24 Ore, il maxi cavo sottomarino che porterà l'elettricità a Capri finalmente e consentirà di chiudere la centrale a gasolio. Cioè, ogni tanto le cose le sappiamo fare e riusciamo a farle. Ma noi siamo bravi, siamo molto bravi in tante cose, siamo meno bravi a dircelo, no? Perché siamo sempre ad autoflagellarci con le critiche serrate. Siamo bravi, per esempio, nei cavi sottomarini siamo molto bravi, abbiamo la capacità di produrli, una delle ultime poche purtroppo multinazionali rimaste a capitale italiano è la Prysmian, è il leader internazionale dei cavi. Siamo anche molto bravi a installarli questi cavi con la Saipem. Insomma, sono realtà industriali, realtà produttive che fanno la forza di questo paese e troppo spesso ce le dimentichiamo. Abbiamo scelto di mettere su questa operazione la foto in copertina perché è un fiore all'occhiello del paese e dobbiamo esserne orgogliosi. Soprattutto non far finta di non vedere. Sì. Visto che al sud siamo, al sud rimaniamo, l'iniziativa Innovation Days fa tappa, Fabio, in Sicilia e Sardegna, no? Sì, è una scelta che abbiamo fatto simbolica. Ho detto prima che la Lombardia è la locomotiva d'Italia, ma l'Italia è un treno che non può marciare se non aggancia anche vagoni come la Sicilia e la Sardegna. Purtroppo sono regioni d'Italia indietro nello sviluppo economico, c'è bisogno di loro perché l'Italia è una e il rilancio dello sviluppo economico passa anche attraverso l'aggancio di vagoni come la Sicilia e la Sardegna. Sì. I problemi sono tanti, con l'iniziativa di oggi che parte alle 9:30 farò io una introduzione dei lavori che dureranno tutta la mattinata. È un nostro contributo affinché il treno dello sviluppo economico italiano riesca ad agganciare anche le vagoni della Sardegna, anche le isole. Anche le isole. Sul sito degli eventi del Sole 24 Ore trovate la diretta a partire dalle 9:30. E grazie al nostro direttore Fabio Tamburini. Ciao Fabio, buona giornata. Giovedì prossimo c'è GR24. Ci risentiamo subito dopo con Paolo Mieli. E poi parliamo, come vi dicevo, di pubblico impiego. 800 24 00 24, se vorrete intervenire in diretta tra poco. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.